Tante volte i detti popolari non sono semplicistici, ma contengono tante verità. Quante volte abbiamo sentito dire a noi, o noi abbiamo detto ai nostri nipoti, vai adagio a mangiare, bevi lentamente, ti disseta di più. Se tu mangi lentamente, digerisci meglio e ti sazi di più. Guardate che la stessa cosa vale anche per la preghiera, eh? Chi si ingozza quando dice le preghiere, che sia il rosario, che siano i salmi o che siano le letture bibliche, digerisce male. Non solo. Anche coloro che divorano, anche i preti, che divorano le messe, che divorano le preghiere e non si soffermano a masticarle, anzi a ruminarle, digeriscono male, non si saziano e non le gustano. Non dobbiamo moltiplicare le parole, dice Gesù. Eppure guardate che cadiamo dentro sempre in questo errore. Io rispetto coloro che mi dicano, io dico 5 rosari al giorno, 10 rosari al giorno. Beato te, io non sono capace. Io quando ne ho detto 2 faccio già fatica, però non corro. Mi fermo a meditare. Provate a pensare che tristezza quando nella Santa Messa viene recitato il Gloria o il Credo. O quando uno viene a confessarsi e dice l'atto di pentimento, io lo fermo, magari alla fine gli dico, adesso per favore ripetilo pensandoci a quello che hai detto. Abbiamo il Credo e il Gloria che sono stupefacenti. Io quando faccio degli esorcismi obbligo Satana a lasciar libera la persona di pregare bene. Faccio dire il rosario, magari impiego un'ora a dire un rosario. Perché Satana non vuole lasciar libero di pregare bene. Quando recito il credo, lo dico e invito la persona a ripeterlo e Satana glielo proibisce. Che fatica! Io credo in Dio onnipotente. Su, ripeti, Dio onnipotente. Eh no, devi dire io credo in Dio onnipotente. Dio onnipotente, ti ho detto che devi ripetere io credo, silenzio, io credo, e il diavolo tramite la persona mi risponde, ci credi tu? Amici, dobbiamo gustare le parole che diciamo, hanno dentro un significato strepitoso. Io oggi mi soffermavo preparando questa Santa Messa. Sull'antifona, se avete il messalino, il nostro rito ambrosiano, prendetelo. È fantastico fermarsi sui verbi. Cristo si è caricato dei nostri mali. So, magari noi l'abbiamo detto anche noi all'inizio di questa messa, questo canto all'ingresso, e magari non l'abbiamo gustato. Io mi soffermavo e dicevo, Gesù si è caricato dei nostri mali, ha preso su di sé le nostre colpe. Che pienezza, amici, di queste parole. Ci hai riscattato con il tuo sangue, oh Signore. Entriamo nella settimana santa, amici, entriamo con questo cuore. prendiamo il messalino quotidiano, gustiamolo, fermiamoci, mangia lentamente, bevi lentamente, ti disseti di più. Uomini di ogni razza, di ogni lingua, di ogni tribù e nazione. E io mi sono soffermato anche su questo e mi sono detto: ma in paradiso ci saranno tutti, e musulmani, e indù, e cristiani, e buddisti. Perché non devo cominciare ad amarli già su questa terra? Se domani in paradiso spero di essere compagno di banco di loro. Non riuscirò a fare tutto, ma come mi piacerebbe conoscere tutte le loro religioni. Comincio a approfondire la mia, ma come mi piacerebbe conoscere tutti i popoli, tutte le culture, tutte le nazioni, perché sono stati tutti riscattati da Gesù, come lo sono stato io. Quando dicevo questa cosa, una mia antica catechista diceva: ma non è giusto che vengano in paradiso anche loro. Diceva: ma tu ami i tuoi fratelli, o amor di fratelli, amor di coltelli, o pensi che Dio ha creato gli altri diversi? Ma per carità, per carità. Noi non conosciamo il cuore di Dio, non conosciamo il cuore di Dio Padre, il cuore di Gesù. Concludo con l'antifona dopo il Vangelo. Fratelli, seguiamo il cammino di Cristo. Egli morì per noi, lasciando un esempio. Sulla croce portò nel suo corpo i nostri peccati. Io vi auguro, cari amici, di saper mangiare e bere lentamente, non solo a tavola, ma anche in chiesa, ma anche in questa settimana santa. Vi auguro di prendervi del tempo e una matita, un abiro per sottolineare. Diceva Cardinal Martini: sottolinea il Vangelo. E affinché la gente capisse bene, diceva: guardate che non basta sottolinearlo con la mente, usate proprio una matita, sottolinea il Vangelo. Non abbiate paura di sciupare la vostra Bibbia, di sciupare il vostro libricino. Se guardate i miei, sono un campo di battaglia, sottolineato una volta, due volte, una freccia che va da una parte, che va dall'altra. Abbiamo bisogno di studiare, almeno come facciamo a scuola, anche la liturgia, che è la madre di tutte le preghiere.